Oggi ci spiega tutto l'avvocato Gabriele Fava dello studio. Grazie, senz'altro porto i miei figli allo stadio. Allora, benvenuti, oggi scriviamo le prime pagine di un manuale di capricciologia. 800 24 00 24. Anna, buongiorno care amiche, di che siete carissime. Qualcosa di importante. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Morticia sta cercando di dirci qualcosa. Parla, mano. Smetti di balbettare. Che cosa? Caro, ci sta dicendo che c'è qualcuno alla porta. Oh, tu e mano. Che intesa perfetta. Le mani parlano di noi e a volte dicono più delle parole, lo sappiamo bene noi che siamo il popolo dei gesticolatori per antonomasia. Ma oggi ribaltiamo la situazione, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 e diteci tutto di loro, se qualcosa è cambiato nella loro forma, se sono doloranti, se si addormentano, formicolano, se sono particolarmente sensibili, avvertono di più la fatica, se sono meno forti, fanno fatica a stringere, ad afferrare, insomma chiamateci, però anche per dirci che va tutto bene. Noi vi racconteremo le ultime novità emerse da un convegno che si è tenuto in questi giorni a Milano e che ha visto la partecipazione di più di 1000 specialisti, chirurghi della mano, che si sono confrontati sul nuovo corso, sulla nuova tendenza della chirurgia che farà sempre meno ricorso ai bisturi. Invece, nella seconda parte di Cuore Denari, mani sul volante, come direbbe il nostro Alessandro Milan, che è proprio qua dietro a noi e salutiamo. Dedichiamo infatti uno spazio ai nostri amici automobilisti che sono stati più o meno recentemente vittime dell'autovelox. Perché? Parliamo di questo argomento, molto popolare tra l'altro. La Corte Costituzionale ha stabilito che le multe prodotte dagli autovelox che non vengono controllati periodicamente sono illegittime e quasi sono scatenate le speranze di molti. Vuol dire che alcune multe che forse proprio voi che ci ascoltate avete ricevuto di recente potrebbero non essere valide. Allora, a partire dalle 11.45 cerchiamo di capire insieme come si può stabilire se siano valide o meno e come comportarsi in questi casi. E non ad affettare le cipolle, ma ad afferrare una penna, vi invitiamo a fare adesso. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, e con una mano afferrate la penna, con l'altra iniziate a comporre il nostro numero verde. Bene, afferrando una penna, un gesto che noi compiamo tante volte durante la giornata, e pensate, è il risultato di una serie di meccanismi molto sofisticati. La mano infatti è un organo complesso, è composto da muscoli, tendini, ossa, fibre nervose, altamente sensibili, capaci di compiere con straordinaria disinvoltura compiti e operazioni tra loro molto diversi. Se avete preso la penna, sappiate che avete mosso senza fatica tutta una serie di muscoli e di tendini che dalla spalla arrivano ai polpastrelli. Non è cosa di poco conto, tanto che nella parte del cervello destinata a regolare l'azione dei muscoli, la zona proprio più vasta è riservata alle mani. Ma adesso lasciate la penna, ho bisogno di lasciarvi le mani libere per permettervi di chiamare il nostro numero verde, e dato che è un po' di tempo che non vi lanciamo una sfida, chiamateci per dirci, attenzione, dove si trovano e quanti sono i muscoli che permettono alla nostra mano di svolgere con grande abilità compiti di precisione. Chiamateci al nostro numero verde, noi naturalmente apriremo la biblioteca di Cuore Denari, sarà un grande chirurgo chirurgo della mano a decretare la risposta esatta. E allora saluto il professor Giorgio Paiardi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi. Professore, la mano è un organo e ha il suo specialista di riferimento. È un po' come, no, una grande star, e per fortuna, perché è molto complicata la mano, eh? Guai se non avesse una persona, un esperto proprio dedicato. Tra cute, ossicini, tendini, vasi, nervi, di lavoro ne da parecchio. È un organo a tutti gli effetti, un organo molto complesso che oggi insieme a lei osserveremo con occhio clinico e ascolteremo anche con grande attenzione. Ma in effetti, del resto, come ha appena detto lei, se una parte così preponderante del cervello è dedicata a comandare la mano e a riceverne le informazioni, evidentemente si deve trattare proprio di un organo sofisticato. E ci vogliono quindi degli specialisti, sia chirurghi che riabilitatori, che siano dedicati a full time. Non è possibile pensare di dedicare così qualche attenzione di straforo ad un organo così complicato. È giusto che il paziente pretenda e cerchi il professionista che dedica l'intera sua professionalità, l'intera sua scienza all'organo umano, che ha delle diramazioni, degli interessi, dei coinvolgimenti così sofisticati col resto dell'organismo. Professore, noi non ci fermeremo alla mano, ci allargheremo, saliremo sino al polso, che spesso viene trascurato ma che fa parte a tutti gli effetti dell'organo umano. Il polso ha il compito di guidare, di orientare, ma anche di calibrare la forza della mano. Insomma, se il polso fa male, la mano si blocca, si perde forza, i movimenti diventano difficili. Sicuramente si è un po' abituati all'idea, per un trauma sportivo o perché si scivola per strada, di andare al pronto soccorso, si fa una radiografia, oh guardi, lei è fortunato, non si è rotto nulla, e poi dopo diverse settimane, a volte anche mesi, continua a fare male. No, non siamo fatti solo di ossa visibili a una normale radiografia, siamo fatti anche e vorrei dire soprattutto di legamenti, di capsule articolari. E un'alterazione a questo livello impedisce la funzione, oltre che creare molto dolore. Quindi oggi ci occuperemo anche del vostro polso. Osservate le vostre mani, ascoltatele, se mi mandano messaggi, dolore, formicolio, stanno già arrivando all'800 24 00 24, ma fate attenzione anche al vostro polso. Spesso, come anticipava il professor Paiardi, subiamo un trauma, un incidente, una caduta, ci rassicuriamo perché non c'è nulla di rotto, ma a distanza di tempo il polso non è più, insomma, quello di una volta. Reclama. Professore, in questi giorni, l'ho anticipato, si è appena concluso a Milano un convegno da cui sono emerse delle novità molto interessanti. La prima è che gli interventi saranno sempre meno invasivi. Il chirurgo farà progressivamente a meno del bisturi, è un'ottima notizia. Ma per chi in particolare, professor Paiardi? Ma diciamo che Milano ha avuto il piacere e l'orgoglio di accogliere più di 1600 specialisti provenienti soprattutto dall'Europa ma da tutto il mondo, ed è un evento che ha segnato nella sua grandiosità la storia della chirurgia della mano recente. L'orientamento, come lei precisava, è quello di essere sempre meno invasivi. Vale per tutta la chirurgia in generale, naturalmente. Per la mano questo diventa particolarmente importante, perché con un organo così sofisticato, se riesco ad arrivare a curare la patologia senza interessare, senza ledere i tessuti che sono sani e che mi servono soltanto come cancello, come punto di accesso per arrivare alla patologia, naturalmente limito di molto l'invalidità del paziente del post-operatorio. E le due situazioni probabilmente più eclatanti da questo punto di vista sono, da un lato, il trattamento del morbo di Dupuytren e dall'altro il trattamento della sindrome del canale carpale. Professor Paiardi, a proposito di morbo di Dupuytren, si tratta di una malattia la cui origine è tuttora sconosciuto, salvo un 30% di casi in cui c'è una familiarità. Quindi possiamo dire ai nostri ascoltatori, se vostro padre ne soffriva, chiamateci. Parlo di padre perché il morbo di Dupuytren, che in Italia interessa il 25% degli over 50, riguarda soprattutto i maschi, in rapporto di 10 a 1 rispetto alle donne. Ma che cosa succede? Ci aiuti un po' a intercettare il problema ai primi stadi? All'inizio si sente, si avverte soltanto una nodosità nel palmo della mano, sì. Tant'è vero che spesso i pazienti vanno prima dal dermatologo pensando che si tratti di un callo recuperato andando in palestra o giocando a tennis o giocando a golf. In realtà è un ispessimento di una sorta di membrana, immaginiamo un telo, una tensostruttura, per dirla in termini tecnici, sì, che collega la pelle ai piani profondi. Difatti al palmo della mano noi abbiamo una pelle stabile che non scivola sui piani profondi e possiamo permetterci di battere sul pestacarne naturalmente in modo moderato senza avere disturbi o male. Questa struttura ha una sua malattia che, come diceva giustamente lei, ha una predisposizione congenita anche più della percentuale che lei indica, perché anche nei casi in cui non si manifesta si può comunque essere portatori. E questo è importante non per andare a caccia delle streghe, colpa tua e colpa mia, ci mancherebbe altro, ma per giustificare un dato importante di cui poi magari parleremo, e cioè che comunque sia trattata anche nel modo migliore, ha la tendenza a recidivare, proprio perché il tessuto ripara con lo stesso tipo di cellule che aveva prima. E quindi la scarsa invasività o l'assenza di invasività in queste patologie diventa davvero importante nella prospettiva poi di dover essere prima o poi ritrattato o rioperato. Professore, però fino a qualche tempo fa il trattamento era solo chirurgico, invece ora al posto del bisturi si usa un'iniezione che scioglie, per così dire, il problema. Questo pallino, questa sorta di callo. Questo cordone, sì. Allora, l'intervento chirurgico addirittura fu preconizzato ed eseguito per primo appunto dal barone di Dupuytren, che era il chirurgo personale di Napoleone Bonaparte, che operò il suo cocchiere, pare con grande successo. La nostra generazione ha imparato la chirurgia della mano giusto un po' dopo Napoleone, posso assicurare che quando ero piccolo io le carrozze non c'erano già più, però l'abbiamo imparata lo stesso come la malattia del cocchiere, perché in realtà non si sapeva quanto noi adesso abbiamo appena detto in modo scontato, in realtà è frutto appunto dell'acquisizione della scienza, che c'è questa predisposizione congenita. Le ricerche più recenti, che sono americane, ma mi permetto un po' di patriottismo, lo dobbiamo a questa ricercatrice di origine italiana che si chiama Maria Badalamente, che più o meno una decina di anni fa è riuscita a sintetizzare due enzimi. Gli enzimi sono sostanze che ne sciolgono altre. Nello stomaco noi abbiamo gli enzimi che permettono di digerire il cibo, per fare un esempio. Quindi l'iniezione di questi enzimi permette di sciogliere la membrana rispettando le strutture circostanti. Quindi non è un farmaco chirurgico in un certo senso, o un bisturi chimico, non so, un incrocio decisamente strano nel nostro mestiere che ha completamente rivoluzionato il trattamento della patologia, archiviando in soffitta definitivamente l'intervento chirurgico e permettendo un, chiamiamolo, post-operatorio, un post-trattamento completamente diverso, perché il paziente non ha una mano aperta ma una mano con cui può svolgere le sue attività quotidiane. Benissimo, 800 24 00 24, tanti diversi possono essere i disturbi che colpiscono la nostra mano, riducendone la funzionalità oppure semplicemente provocando dolori, fastidi invalidanti. Chiamateci se notate cambiamenti, se fate fatica ad afferrare o a stringere, se vi sentite le articolazioni arrugginite, se ad esempio quando cambia il tempo il vostro polso si fa sentire, mano alla cornetta come dice Deborah, chiamate il nostro numero verde, e se avete anche strani formicoli, focalizzateli e localizzateli. Ricordatevi di rispondere alla nostra domandona: dove si trovano e quanti sono i muscoli che permettono alla nostra mano di svolgere con grande abilità compiti di precisione. Sì, no, stavo pensando che il domandone è ben più complicato di quelli che faccio a Investire Informati, qua ormai... Sì, però sono localizzati in una zona di cui ha parlato il professor Pagliardi. Ah, c'è stato l'aiutino nel frattempo. Dove andiamo? Abbiamo i nostri ascoltatori. Andiamo a Giovanni da Frosinone, perché tu citavi prima strani formicoli, localizzateli, il formicolio va alla grande fra le domande dei nostri amici che ci seguono da casa. Giovanni, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno al professore. Niente, sono un autotrasportatore da 50, cioè da 30-35 anni. Sì. E, diciamo, questo periodo, il periodo estivo mi viene questo formicolio alle mani, e più mi scappa, diciamo, se piccoli oggetti, non riesco, non c'ho più sensibilità sulle polpastrelli. Ma normalmente questi formicoli mi vengono dalle falange e falangette delle dita. Sì. E cambiano colore di fronte al, diciamo, le falange e le falangette sono differenti dall'altre, non so come si chiamano. Giovanni, impallidiscono o diventano, sì, più rosse? Impallidiscono. Ecco, abbiamo descritto. Se le immergo nell'acqua. Proprio mi danno un prurito tremendo, però non c'ho bolle, non c'ho niente. Giovanni, grazie. Professor Pagliardi. Allora, non c'è una sindrome delle falangi pallide, no. Ma evidentemente qualche cosa succede, dato che come chirurgo della mano vi occupate, no? È lo specialista di riferimento nel caso si avvertano questi disturbi? Assolutamente sì. Allora, diciamo che il formicolio in quanto tale è un disturbo molto generico. Quando andiamo dal dentista che ci fa l'anestesia, sentiamo il labbro informicolato. Quindi il formicolio in quanto tale è un segno di sofferenza o di interessamento di un nervo, ovunque sia. Quando il formicolio è nelle mani, possono esserci a volte dolori o disturbi deferiti, perché in realtà il nervo è infiammato a livello di un'ernia discale o di una colonna cervicale, ma quando il disturbo è limitato alla mano è assai più frequente che nasca dalla mano stessa. Quindi, ne abbiamo appena accennato, la patologia più diffusa, che secondo certe statistiche forse un po' abbondanti dicono che ne soffrirebbe il 40% della popolazione mondiale, abbiamo la compressione del nervo nel polso che dà i disturbi che riceve il signore. L'alterazione del cutanea, sì, a volte quindi il cambiamento di colore, esatto, delle, sì, può essere legato alle forme a volte un po' più avanzate. Ci sono certe patologie, per fortuna queste rare, che rientrano nella categoria della cosiddetta sclerodermia. Sono patologie immunologiche molto pesanti e molto gravi che possono avere anche il disturbo che dà il signore, ma in realtà non mi porrei in questo caso di massima, per quello che posso comprendere a distanza, certo, il problema di una diagnosi differenziale, perché sono patologie queste che hanno un tale corredo di disturbi ampi che il paziente le avrebbe sicuramente riferite. Ma il consiglio quindi per il nostro amico autotrasportatore, che le mani le tiene spesso sul volante e poi ci dà uno straordinario assist per rilanciare anche il secondo tema, direi che la cosa più importante è che si rivolga al medico di famiglia, che deve essere in tutto e per tutto il nostro riferimento per ogni patologia, e che certamente prescriverà un'elettromiografia. L'elettromiografia non è altro che un tester, come quello che si usa in casa per capire se è rotto un interruttore o una lampadina. Quindi si mettono due sensori e questo permette di capire non solo che il nervo è infiammato, che questo lo sa anche il signore, infatti, sì, ci ha telefonato, ma a che livello è infiammato, se è a livello del polso, se è a livello del gomito o più alto. Questo ci toglie ogni dubbio. Ci toglie ogni dubbio e spinge poi magari lo specialista a capire se può essere liberato, no? Questa compressione, esatto, perché voi la chiamate così, no? Esatto. Liberato. Adesso noi via libera i mercati, a proposito. Andiamo un po' a vedere che succede oggi, va, se la Grecia ha liberato un po'. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... A me le altre acque non fanno effetto, invece Rocchetta mi depura, perché Rocchetta vale di più. Cuore e denari. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah! Allora, 100 all'ora, volendo anche più veloci, in realtà fate attenzione, ma naturalmente solo quando i limiti lo consentono, perché non dobbiamo dimenticare che la sicurezza, quando parliamo di auto ed automobilisti, qui a Cuore Denari, per noi è sempre il primo pensiero. C'è da dire però che chi si è visto recapitare una multa per eccesso di velocità, magari per un limite superato per un soffio, e poi scopre che questa multa gli è stata comminata dall'autovelox e che questo autovelox poteva pure essere tarato male, beh, allora potrebbe aver voglia di farsela annullare questa multa. Immaginiamo che tanti di voi all'ascolto lo farebbero, no? Noi parliamo di questo tra poco nella pagina di Denari, perché la Corte Costituzionale ha stabilito che le multe prodotte dagli autovelox, ma non da tutti, quelli che non vengono controllate periodicamente, sono illegittime. Allora voi correte al telefono, ad un limite ragionevole, iniziate a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci se siete stati pizzicati da uno di questi dispositivi ultimamente, di quanto superavate il limite di velocità, eravate convinti di procedere regolarmente. Noi aspettiamo i vostri racconti e capiremo insieme come ci si può comportare alla luce di questa novità. Sei un amico, ti stringo la mano. Se chiedi un aiuto, ti tengo la mano. Se vi sta a cuore la salute dei vostri polsi e delle vostre mani, lasciate che il vostro indice componga il nostro numero verde 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo un grande esperto, il professor Giorgio Paiardi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi della nostra città. Intanto abbiamo il nostro domandone, un ascoltatore ci ha scritto: ma la barriera rosa è già aperta, è sempre aperta, può saltarla facendo il nostro numero verde. Il nostro domandone, diteci dove si trovano e quanti sono i muscoli che permettono alla nostra mano di svolgere con grande abilità compiti di precisione. Professor Paiardi, ci siamo lasciati con il tunnel carpale. Sì. Alcuni dicono che, come la Befana, il tunnel carpale venga di notte proprio perché spesso il formicolio è percentuato nelle ore notturne. E questo può aiutare? Può aiutare noi, che non addetti ai lavori, a farci una sorta di autodiagnosi? È vero? È corretto? Assolutamente sì. La mano, diciamo che dà le sue migliori prestazioni quando si muove, quando funziona. Per cui quando è ferma, che sia di notte, che sia perché stiamo guardando un film avvincente, perché sia perché siamo rilassati, in quel momento c'è una stasi di liquidi e in un paziente che soffre di questa patologia, nel vero senso della parola, è la goccia che fa traboccare il vaso. Il nervo ha meno dello spazio che gli sarebbe correttamente destinato e manifesta questo suo disappunto mandando segnali che all'inizio sono segnali, come dire, morbidi, quasi di pace, guarda che ho un po' di fastidio, per cui c'è la parestesia, che vuol dire l'alterazione della sensibilità che viene e va, e man mano che il paziente tende a trascurare questo disturbo, il nervo si fa più alza la voce e quindi diventa un dolore urente, e come tutti sappiamo il nervo, che sia il nervo dell'emicrania, che sia il nervo della cervicale, che sia il nervo del mal di schiena, quando fa male diventa davvero, davvero insopportabile. Un medico di medicina, un medico del lavoro, ci scrive un sms al 349-238-6666 dicendo che secondo lui vengono operati troppo tempestivamente, sindrome del tunnel carpale, anche le forme lievi. Ma questo, qual è la sua impressione? Allora, diciamo che la patologia in quanto tale purtroppo non ha remissione spontanea, cioè quando c'è la sintomatologia e l'elettromiografia di cui parlavamo prima, cioè l'esame tester che ci dà la certezza diagnostica, è positiva, a questo punto il nervo ben difficilmente torna indietro perché lo spazio non ce l'ha più. Quindi diciamo lo spartiacque è la sintomatologia con l'esame ancora negativo, trattamento conservativo fatto sia con un tutore, che possibilmente è un tutore non acquistato ma fatto su misura da un terapista della mano, e terapia occupazionale si chiama, ovvero sia insegnare al paziente come utilizzare le proprie mani al meglio per ridurre gli stati patologici. Sì, mi scusi professore. No, ci mancherebbe. Quando invece noi abbiamo che anche l'esame si è positivizzato, e quindi vuol dire che non è un nervo sano che, come si dice a Milano, un po' schisciato, ma è un nervo che ormai manifesta palesemente il fatto di essere irritato, allora l'indicazione è chirurgica. Posso concordare con il collega che l'intervento non deve creare più danni della patologia. Certo. E quindi è per quello che stiamo parlando di endoscopia e non di tecnica aperta. Allora, Mirella ci scrive: per migliorare il tunnel carpale bisogna dormire la notte supini, con le braccia dritte, e fare tanta ginnastica polsi e dita. Concorda, professor Paiardi? Sulla prima parte sì, in effetti l'ascoltatrice non fa altro che riportare in modo empirico, sulla base dell'esperienza personale, la posizione che viene data dal tutore. Indossare un tutore è più pratico perché uno dorme come vuole. Certo, senza ci poi... pensa il tutore, perché insomma. Tra perdere il sonno per il canale carpale e perdere il sonno per la posizione che uno deve assumere per non avere il canale carpale, la notte diventa un incubo altrimenti. E quindi questo è un elemento. Sul fatto di fare ginnastica per le mani e i polsi facciamo un attimo attenzione, nel senso che le nostre mani lavorano davvero 24 ore al giorno e, come diceva lei in apertura della trasmissione, soprattutto per noi che gesticoliamo anche mentre parliamo, anche quando siamo al telefono gli altri non ci guardano, come sto facendo adesso io. E quindi quella è una ginnastica costante. Altro è invece quando ci sono determinate situazioni di patologie come l'artrosi del pollice o d'altro, di compiere determinati esercizi di postura, un po' come faremmo per il mal di schiena, per intenderci, per dare sollievo alle articolazioni. Ma altrimenti le mani le usiamo davvero tanto, a 24 ore al giorno di per sé. Allora, tanti sono gli ascoltatori che hanno composto il nostro numero verde. Io dedicherei le ultime parti, gli ultimi minuti della prima parte di Cuore Denari, allora, alle telefonate dei nostri ascoltatori, pregando il professor Paiardi naturalmente di prendere spunto dalle richieste dei nostri ascoltatori per dare anche consigli generali a chi magari non è riuscito a saltare, superare la barriera rosa. Iniziamo da Guglielmo, che ci chiama da Genova. Buongiorno Guglielmo. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Il mio problema è un problema che ho scoperto per essere comune anche ad altri motociclisti, perché spesso andiamo in moto in un gruppo, in un motoclub. Io, dopo un po' di ore che si va in moto, a me succede che il pollice e l'indice si inarchino come se una contrattura al contrario. Quindi a un certo punto bisogna fermarsi e lì cercare in qualche maniera di piegarli. Questo mi succede anche quando vado con la moto da fuoristrada, anche dalla mano destra. Però voglio dire questo: io la mia scintografia l'ho fatta 6-7 anni fa ed è risultato che non avevo nulla. Però adesso si è riacutizzato questo problema. Grazie Guglielmo. Professor Paiardi, lei sicuramente avrà già sentito, mi sembra una cosa molto curiosa, che sono queste due dita che scattano. Che cosa succede? Allora, in realtà il problema è abbastanza frequente in chi utilizza la moto in modo intenso. Ho sentito parlare di ore, quindi non è il motorino per andare in ufficio. Il punto, la situazione più frequente è quella che è comune anche a noi mortali, che il motorino non lo usiamo, ovvero sia di una sofferenza del nervo. Il paziente, l'ascoltatore, ha fatto un'elettromiografia un po' di anni fa. Teniamo conto che la situazione di un nervo può cambiare da un mese all'altro, quindi di partenza credo che una verifica in quel senso sia più che opportuna. In realtà nei motociclisti, soprattutto quelli un po' esasperati o addirittura professionisti, quello che accade è una sindrome da sovraccarico, cioè la muscolatura dell'avambraccio è talmente sviluppata sia come potenza ma anche per la lunga resistenza e lunghi tragitti, che si espande a tal punto da rimanere ingabbiata nella fascia muscolare che è inestensibile. È per questo motivo che molti professionisti di MotoGP, un po' esasperati per carità, fanno un intervento chirurgico che di per sé è un po' strano, perché vengono operati pazienti che sono sani, ma si apre la fascia del muscolo in modo da permettere al muscolo di espandersi senza limiti sotto pelle, e la gran parte dei motociclisti di MotoGP che ne vediamo alla televisione la domenica hanno effettuato questo tipo di intervento. Sono naturalmente però professionisti, quindi nella maggior parte dei casi si può rimediare una volta che, ripeto, abbiamo verificato strumentalmente che le cause non siano altre, con una corretta preparazione atletica, perché il problema talvolta può essere che si fa tutt'altro, e non è certo il caso dei professionisti, e poi si sale in sella e si piazza la domenica, certo, 3 ore di bicicletta o 3 ore di moto. Ecco, quindi ci vuole anche un po' di preparazione. Esatto. Questo è il messaggio che possiamo dare al nostro ascoltatore, quindi vale per la moto ma anche per la bicicletta, per tutte, no, le attività che comportano un utilizzo, no, una posizione della mano sul manubrio in questo caso, oppure sul esteso. Abbiamo un'ascoltatrice che vorrei da cui vorrei dare la precedenza, perché ci racconta la storia della sua bambina, e il professor Paiardi è un grandissimo esperto in questo campo. Dennis, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, pensavo fosse, ho letto male il suo nome. Rapidamente ci racconti. Allora, praticamente è successo 2 settimane fa, su uno scivolo a mia figlia hanno praticamente amputato, se possiamo dire, una falange di un dito piccolo, sì, okay, della mano destra. Sì. È stato ricucito e quindi praticamente adesso ci hanno detto che praticamente è passato un mese, no? Quindi il 7 di luglio dovrebbero operare, quindi cavare via tutto, diciamo, la necrosi. Sì. Okay? La mia perplessità era che non sia troppo tardi, che siamo in tempo, tutto questo. Grazie. Professor Paiardi, questo è proprio il campo suo. Sì. Abbiamo pochi minuti, ma giusto il tempo per dare un messaggio, allora, al nostro papà e le indicazioni corrette. Una risposta mi permetta a tutti gli ascoltatori. Nulla è sicuro come sembra. L'associazione di cardiologia della mano ha bandito col ministero 5 anni fa la campagna di prevenzione traumi per i bambini, ed esiste un sito che è www.manisicure.eu che dà tutte le istruzioni e le informazioni ai bambini e da diffondere anche nelle scuole su come cercare di limitare i traumi alle mani, a partire dai maledetti petardi di Capodanno. Per quanto riguarda il caso specifico del signore, il fatto che stia andando in necrosi vuol dire che non è stato possibile effettuare il reimpianto microchirurgico, perché quando si può abboccare il vaso microchirurgicamente non c'è nessun segno di necrosi. Se il polpastrello è già un po' scuro e un po' nero, per quello che io posso naturalmente, certo, valutare a distanza, di massima direi che la preoccupazione del papà è più che legittima. Quando il tessuto ormai ha mostrato di non avere risposto positivamente all'intervento, lasciarlo in sede può essere solo causa di infezione. Grazie professor Paiardi. Grazie a voi per essere stato con noi. Abbiamo poi il domandone che prenderemo magari nel corso, perché abbiamo le informazioni. Che dici? Come vuoi, se vuoi sentirli subito. Chi abbiamo? Chi è che risponde? Pensiamo. Maddalena dalla provincia di Taranto? Pronto? Maddalena, quanti sono e dove si trovano i muscoli che permettono alla nostra mano di eseguire con abilità delle cose di grande precisione? Allora, sono 20 e si trovano nell'avambraccio. Ai, professor. No, non sono, in realtà, professor Paiardi. Allora, la risposta della signora non è così sbagliata. Sì. Perché i muscoli della mano si dividono in due parti, una parte di muscoli che sono nella mano e una parte di muscoli che sono nell'avambraccio. E noi chiedevamo espressamente quelli che sono nella mano per compiere i movimenti più delicati, più fini. Però gliela passiamo. La signora ha risposto sui muscoli che permettono, per esempio, di andare in moto, per i muscoli, chiamiamoli con tutto rispetto, ma più grossolani, che effettivamente stanno nell'avambraccio. Però il libro Maddalena lo diamo ugualmente, sì. Comunicherà a Marco Lombardo e Esotta Scena quale dei due libri preferisce. Grazie. Grazie, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, se avete necessità, bisogno, eccetera, naturalmente scrivete a Cuore Denari. State ascoltando un programma offerto da... A me le altre acque non fanno effetto, invece Rocchetta mi depura, perché Rocchetta vale di più. Cuore Denari. cuore e denari. Mi vuoi fare la multa? Ormai tutto è una multa, una tassa occulta. C'è il divieto di sosta, ma il divieto cos'è? Mi piacerebbe proprio fare un sondaggio, se solo potessi vedere le alzate di mano dei nostri ascoltatori. Vuoi sapere cosa vorrei chiedere? Ci terrei. Se almeno una volta nella vita, o quantomeno recentemente, si sono visti appioppare una multa che è stata prodotta da un autovelox. Se forse è capitato a molti di voi, ma oggi prestate bene attenzione a quello che stiamo per dirvi, perché le multe che arrivano dopo la fotografia che ci ha scattato questo micidiale dispositivo, almeno le foto che arrivano da quegli autovelox che non vengono controllati periodicamente, sono multe illegittime. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Vi do anche i riferimenti della sentenza, così ve l'andate a leggere, tranquilli. Cosa vogliamo di più? È la 113 di quest'anno. Allora, che effetto avrà questa sentenza? Pensate che in gioco ci sono centinaia di migliaia di verbali non ancora pagati. Vi dico già subito che per quelli pagati la partita è chiusa, perché già c'è qualche ascoltatore che lo chiede. Allora, siete tra quelli che ne hanno appena ricevuto uno? Magari siete tra coloro che avranno la fortuna di non doverla pagare questa multa. Oggi ci si vega tutto. Il nostro amico Silvio Scotti, nostro esperto di codice per la strada, di codice della strada, lo è naturalmente soprattutto per il Sole 24 Ore. Dottor Scotti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Benvenuto. Allora, intanto stavo curiosando fra le telefonate che stanno già arrivando degli ascoltatori, che ce n'è uno, Dario da Milano, che ne ha prese 4 in 5 giorni passando sul ponte della Ghisolfa a Milano, che io faccio tutti i giorni, due volte al giorno. Non mi è arrivato un bel niente. Oggi andrò a 3 all'ora sul ponte della Ghisolfa, ve lo dico già. 800 24 00 24, per raccontarci se siete stati pizzicati da uno di questi dispositivi ultimamente, di quanto superavate il limite di velocità, eravate convinti di procedere regolarmente, avete mai provato a fare ricorso per una multa per eccesso di velocità. Allora, dottor Scotti, nella sostanza, in che termini è intervenuta questa sentenza e come mai la Corte Costituzionale si è pronunciata su questo argomento? Immagino che si parta da qualche ricorso di qualche automobilista che ha voluto contestare questa sanzione. Ecco, direi che la vittoria è dovuta alla tenacia dell'automobilista, il quale ha praticamente superato ogni ostacolo arrivando fino alla Corte Costituzionale, quindi passando attraverso il ricorso al prefetto, poi dal giudice di pace, dopodiché al tribunale e insomma fino ad arrivare alla Corte Costituzionale, che è veramente notevole. Determinato. Era proprio No, evidentemente l'autovelox che gli aveva appioppato la multa era proprio talmente messo male che lui dice: non è possibile che una sanzione che arriva da quel dispositivo là sia valida. Non lo so, adesso così invento. Comunque andiamo avanti, dottor Scotti. E di conseguenza è arrivata la Corte Costituzionale, la quale ha stabilito, invertendo una tendenza che prima era della giurisprudenza di legittimità, sull'articolo 45 del Codice della Strada, e quindi sancendo la necessità di taratura e di verifica di tutti gli autovelox, come del resto anche una certa giurisprudenza di merito aveva già cominciato a sottolineare. Abbiamo dei precedenti in questo senso. Comunque adesso addirittura l'interpretazione secondo la quale non dovrebbero essere sottoposti a verifica è addirittura incostituzionale. Allora, quindi nella sostanza la Corte Costituzionale ha bocciato questa disposizione del codice della strada nella parte in cui non prevede che tutti gli apparecchi siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Precisamente. Eccolo qua, la leggo naturalmente questa parte della sentenza della Corte Costituzionale. Ma, dottor Scotti, come facciamo a sapere se la multa che ci è stata recapitata e appioppata arriva da un dispositivo che non è stato sottoposto ad adeguate verifiche? È il problema più serio che abbiamo, perché in realtà l'unico modo sarebbe soltanto quello di verificare se nel verbale è sottolineato questo aspetto, ma in realtà non c'è nessun obbligo nel verbale di dire che l'apparecchiatura era stata tarata o comunque verificata entro un anno dal suo utilizzo. Di conseguenza è un problema piuttosto serio. Bisognerebbe innanzitutto chiedere al comando di polizia procedente se effettivamente è stata effettuata la taratura. cercando di ottenere la risposta nei termini per poi poter presentare un eventuale ricorso. Esattamente, perché il tema è proprio questo. Già un ascoltatore, quando abbiamo lanciato la trasmissione, Ugo da Torino ci aveva scritto: se però l'autovelox poi risulta regolare, in regola, io pago il doppio se mi scadono, naturalmente, se passano tutti i termini entro i quali io ho la possibilità di inoltrare ricorsi su ricorsi. Certo, ora si tratta ovviamente di non fare un ricorso al buio. Innanzitutto direi che i casi sono soltanto quelli in cui si supera di poco il limite, perché calcoliamo anche che rispetto alla velocità effettivamente rilevata viene decurtato un minimo di 5 km orari o comunque di un 5%, di conseguenza è già una velocità ridotta rispetto a quella effettivamente misurata. Solo laddove lo scarto tra la velocità contestata è quella che si ritiene di aver tenuto è minimo, allora ha senso chiedersi se l'apparecchiatura era stata tarata e verificata. Allora, senta, dottor Scotti, per sicurezza, quindi la prima raccomandazione di buonsenso che possiamo fare agli ascoltatori è: non strappiamo la multa appena notificata solo perché abbiamo letto di questa sentenza della Corte Costituzionale. Prendiamo un po' di tempo prima di pagarla o non pagarla e prima di provare anche a fare un ricorso. Ci arriva proprio in questi giorni una multa che deriva appunto dal controllo tramite autovelox. Che cosa andiamo a verificare su questo documento? Ci dia un po' qualche indicazione. Perché ridi, Nicoletta? No, rido perché non un ascoltatore te l'ha buffata, ha detto che la ghisolfa non perdona e che tra qualche tempo arriverà anche a te. Allora, a parte il fatto che io vado regolarissima lì sopra, pertanto a me non arriva un bel niente, dopodiché lo vado a cercare e ci faccio due chiacchiere con questo simpatico ascoltatore. Dottor Scotti, andiamo alla verifica del documento. Certo, innanzitutto bisogna verificare la regolarità formale, questo riguarda tutti i verbali, quindi che sia stato notificato entro i 90 giorni, che effettivamente il passaggio rilevato sia congruo, perché un errore nella lettura di targa ci può sempre essere, e dopodiché nel caso specifico dell'eccesso di velocità ricordiamoci che ci devono essere i cartelli, non soltanto quelli che determinano il limite di velocità che non deve essere superato anche soprattutto per la sicurezza personale, ma anche quelli di preavviso del controllo, che devono essere posizionati a una distanza congrua in modo che il conducente possa adeguare la sua velocità. Questo è fondamentale, è un requisito di legittimità, e laddove non fossero ben visibili questi cartelli o non esistessero, chiaramente il verbale è illegittimo, perché questa è una condizione di legittimità. Non fossero ben visibili significa anche magari coperti dalle fronde di un albero. Esatto, cioè vero? Laddove non sono proprio visibili, cioè percorrendo normalmente la strada dal punto di vista dell'automobilista oppure del motociclista, cioè non essere in grado di avvistare compiutamente il cartello. Questo deve essere sempre avvistabile, questo riguarda ovviamente tutta la segnaletica. Dopodiché direi di controllare che è stata effettivamente effettuata la decurtazione pari al 5% con un minimo di 5 km orari, e dopodiché chiedersi se effettivamente quella velocità era congrua rispetto a quella che si ritiene di aver tenuto. Certo, allora tra l'altro sul tema di questo 5% ci ritorneremo, perché vedo che molti ascoltatori ci segnalano di multe che arrivano naturalmente perché si è sforato il limite di velocità per un chilometro orario, quindi cercheremo di capire anche quando hanno ragione queste sanzioni di essere comminate o meno. Riesco? Ho forse 30 secondi. Giuseppe da Roma, ce la fa la sua domanda al volo? Sì, la mia domanda è stata bruciata dal suo chiarimento in apertura. Sì. Volevo sapere se era applicabile alle multe già pagate. Ridaremo questa nefasta notizia dopo. Grazie. 800 24 00 24, multe da autovelox a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Sono Enrico Ruggeri. Ci sono molte storie che avete scelto voi a Il Falco e il Gabbiano. Tra le storie di questa settimana, Paola Cooper, scampata al braccio della morte fino al recente suicidio. Le brevi vite maledette di Sid Vicious e Kurt Cobain. Lutz Long e la sua amicizia con Jesse Owens, l'uomo che vinse contro Hitler. La follia, la solitudine e la grande poesia di Alda Merini. Vi aspetto su Radio 24 alle 15.30 con Il Falco e il Gabbiano. e denari. Vigile, ancora un'altra multa, no? No, perché adesso ci pensa l'autovelox, guarda, il vigile si è smaterializzato, però qua c'è anche la Corte Costituzionale. Ce n'è in giro. In carne e ossa. Pizzardoni, com'è che li chiamano a Milano? Si può dire? Non so se li chiamano pizzardoni. Carmelo non suggerisce. Non sono i Ghisa a Milano. I Ghisa. Ma il pizzardone da dove esce? Non lo ricordo. Vabbè, facciamo anche questo di domandone, così lasciamo divertire i nostri ascoltatori stamattina. Ultima parte di Cuore e Denari, ancora con noi Silvio Scotti, esperto di codice della strada per il Sole 24 Ore, che non si è collegato con noi per farci una multa, ma per aiutarci a fare un po' di chiarezza su questa notizia che sicuramente avrete avuto modo di leggere da qualche parte in questi giorni e a cui gli automobilisti non possono rimanere indifferenti. La Corte Costituzionale ha stabilito che le multe prodotte dagli autovelox che non vengono controllati periodicamente sono illegittime, perché questi dispositivi potrebbero essere tarati male. Vuol dire che alcune multe che forse proprio voi che ci ascoltate avete ricevuto di recente potrebbero non essere valide e quindi possono essere contestate e non pagate. 800 24 00 24, vi stiamo chiedendo di raccontarci se siete stati pizzicati di recente da uno di questi dispositivi, di quanto superavate il limite di velocità. Voi eravate convinti di procedere regolarmente, avete mai provato a fare ricorso per una multa per eccesso di velocità? Naturalmente siamo pronti a raccogliere tutte le vostre esperienze. Intanto, dottor Scotti, per capirci meglio, volevo tornare proprio su quanto diceva il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, quando ha raccontato e spiegato bene questa notizia. C'era anche un articolo con la sua firma. Il Sole diceva: per capire meglio l'ambito colpito dalla nuova sentenza bisogna dividere gli autovelox in queste due grandi famiglie. La prima è rappresentata dagli apparecchi accompagnati dalla pattuglia, la seconda abbraccia invece quelli che vengono pizzicati sulle strade, che vengono piazzati sulle strade, lasciati lì a funzionare in automatico. Allora ci rispiega di nuovo perché ha rilevanza questa distinzione? Sì, dunque ha rilevanza perché in realtà nei decreti di omologazione per quanto riguarda le apparecchiature a rilevazione automatica, quindi quelli dove la pattuglia non è presente ma funzionano in assoluta solitudine, è già previsto che vi sia una taratura periodica di queste secondo però il manuale delle istruzioni. Vabbè. Mentre per quanto chi la fa questa taratura? Ci va il sindaco del comune? Questo bisognerebbe leggere i manuali di istruzione, però solitamente sono meccanismi di autodiagnosi. Mentre per quanto riguarda gli autovelox, quelli utilizzati dalle pattuglie, quindi accompagnati, dove, diciamo, esatto, così, dove sul verbale quindi troviamo scritto anche il nome e cognome degli agenti accertatori, esatto, precisamente, ecco che lì invece la pattuglia deve preventivamente monitorare il funzionamento. Tuttavia anche in questo caso la sentenza della Corte di Cassazione, che è molto precisa e puntuale, dice attenzione, perché anche i meccanismi di autodiagnosi sono soggetti, come tutti i meccanismi, ad obsolescenza, deterioramento, certo. Quindi non sempre sono sufficienti. Quindi si crea una sorta di vuoto legislativo dove la Corte Costituzionale indica al legislatore che non sempre il seguire le istruzioni del manuale d'uso può essere sufficiente per quanto riguarda l'affidabilità delle apparecchiature. Senta, dottor soprattutto, Scotti, ma il manuale d'uso dell'autovelox chi ce l'ha? Manuale d'uso dell'autovelox, cioè quello delle istruzioni, perché adesso stiamo veramente affrontando, mi sembra, la fantascienza qua, no? Certo, comunque è a disposizione delle pattuglie e ovviamente una copia è depositata presso il Ministero. Ecco, quindi uno dice mi faccia un po' vedere il manuale di istruzione. No, è un po' come il libretto della caldaia, no? Oppure del climatizzatore. Sì, hai fatto il controllo del climatizzatore. Voglio leggerti il messaggio del nostro amico che ci scrive: io che monto condizionatori tutti gli anni devo far tarare i miei strumenti. Bravo. E io non do multe. Ecco. E in realtà poi attenzione invece alle caldaie, perché le multe arrivano. Già scritto un ascoltatore a cui è stato chiesto da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze di mostrargli tutti i libretti per la manutenzione degli impianti, quindi in realtà fate la corretta manutenzione di tutto, perché i controlli arrivano e come. Allora, le multe con l'autovelox, multe non multe, a chi è arrivata? Sentiamo un po' che cosa è successo a questi nostri ascoltatori. Ah no, tra l'altro non abbiamo avuto la risposta formale di Silvio Scotti alla domanda fatta dall'ascoltatore di Roma prima della pausa. Per chi ha pagato, dottor Scotti, non si può riaprire alcunché? No, non si riapre alcunché, perché diciamo che quando c'è il pagamento la questione viene definitivamente. Figuriamoci se lo Stato ci o il comune ci restituisce quello che abbiamo pagato. Allora andiamo a Claudio dalla provincia di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Multato. Dunque, niente, io ho sentito pizzicato la vostra trasmissione. Mm-hmm. E dato che ho vissuto per molti anni in una ditta in cui c'era un regime di qualità, è chiaro che il rilevatore di velocità è uno strumento a tutti gli effetti. Per cui non è soltanto necessario che venga tarato periodicamente, deve essere tarato ovviamente con dei campioni secondari che a loro volta sono tarati, quindi non deve esserci incertezza. Però la cosa importante è che su ogni equipaggiamento, su ogni rilevatore, deve essere apposta un'etichetta nella quale è scritta la data dell'ultima taratura. Sì. E anche normalmente la periodicità di taratura. Una copia dei risultati della taratura dovrebbe essere data all'ente che ha in gestione. Ma Claudio, lei come mai ci parla con questa cognizione di causa? Ed io sono stato responsabile della qualità in alcune ditte importanti. Ah, visto. L'abbiamo subito. Quindi, insomma, una sorta di certificazione banale, anche per questi strumenti. Però è qua che diceva il dottor Scotti prima, c'è un vuoto normativo, no? Mi pare di capire, dottor Scotti, che si rifà anche l'osservazione del nostro ascoltatore di Pavia. Sì, esatto, perché all'attualità il Ministero rimette tutto all'azienda che lo produce, mentre, come giustamente diceva l'ascoltatore, ci dovrebbe essere un ente terzo o comunque un meccanismo legislativo che consenta di fare questa taratura. Però torniamo sempre al solito problema, che chi il sanzionato, cioè colui che riceve il verbale, difficilmente ha a disposizione questo dato, a meno che, e questo potrebbe essere così il futuro per la pubblica amministrazione, di inserire all'interno del verbale anche l'avvenuta taratura periodica. Ecco, insomma, che la Corte Costituzionale faccia anche un passo avanti e come dire, indichi anche la strada che le amministrazioni comunali devono prendere. Dottor Scotti, allora, per dare proprio un'informazione concreta agli ascoltatori, certo, che hanno tra le mani in questo momento una multa che è arrivata ieri, l'altro ieri, una settimana fa, e che risulta proprio da un'infrazione commessa schizzando davanti ad un autovelox, appunto, che ha rilevato una velocità non conforme alle indicazioni del codice della strada. Secondo lei, quando vale la pena contestarla? Che cosa deve fare? Che cosa si deve andare a guardare? Diamo proprio un ABC molto pratico ai nostri amici automobilisti un po' indispettiti. Certo, allora innanzitutto direi che bisogna fare una distinzione. Quelle sanzioni dove l'eccesso di velocità è assolutamente palese, ovviamente sulla base della velocità rilevata, e quelle che magari sforano magari di un chilometro o due. Ecco, che però arrivano pure queste. Esatto, certo, ma solamente in quel caso ha un senso parlare di mancata taratura. A quel punto ci si può rivolgere all'organo di polizia che ha elevato il verbale, chiedendo se effettivamente la strumentazione era stata tarata. In caso di risposta negativa, allora ha senso presentare un ricorso alla prefettura o al giudice di pace, a seconda dei casi, e chiedere l'annullamento della sanzione. Ma secondo lei eventualmente l'organo di polizia municipale ammette che il dispositivo era tarato male? Beh, no, allora non deve ammettere che sia tarato male, ma se ha effettuato i controlli sulla taratura, che sono i controlli periodici stabiliti per ogni singolo apparecchio. Quindi, però lì sarebbe io come vado, ammettere. Chiedo e loro mi danno una specie di certificato che dimostra che no, è stato... danno una risposta, è una sorta di accesso agli atti amministrativi, danno una risposta alla cosa. Teniamo presente che le apparecchiature, quelle automatiche, quindi quelle che non accompagnate, la stragrande maggioranza delle violazioni sono quasi sempre tarate periodicamente. niente, ecco, su questo certo. C'è una prassi di esatto, quindi adesso non facciamo coltivare false speranze ai nostri ascoltatori che immaginano che tutti gli autovelox disposti appunto sulle strade e le auto, esatto, siano tarati male. No, attenzione, insomma, sono tutti regolari naturalmente. Se a volte però c'è anche dubbio, troppo il piede che schiaccia il pedale, ecco, esattamente. Per andiamo. Cui mi scusi, l'ho interrotta sull'ABC dell'eventuale contestazione. Quando ecco, dicevo, soltanto a fronte di queste condizioni allora ha senso richiederlo. Tra l'altro, ecco, per quanto riguarda le apparecchiature automatiche, per quanto è la mia esperienza, direi che sono sufficientemente controllate. Può darsi, nel caso di qualche apparecchiatura che magari è in uso alle forze dell'ordine, è piuttosto obsoleta, continuano le forze dell'ordine correttamente a fare le autodiagnosi, ma magari l'apparecchio ecco, ha qualche difficoltà da questo punto di vista. Certo, senta, dottor Scotti, sulla base della sua esperienza, naturalmente, non perché lei abbia questa fotografia e naturalmente non è neanche tenuta ad averla, ma per curiosità, esiste una statistica sul numero di multe che arrivano dagli apparecchi presidiati o da quelli che invece sono soli e soletti? In sostanza, quali sono quelle più diffuse, quelle che arrivano prevalentemente? Senza dubbio, con una percentuale assolutamente schiacciante, sono quelli automatici. Ah, ecco qua. Sono quelli automatici perché ovviamente innanzitutto non smettono mai di lavorare, poi solitamente sono poste su strade già prescelte in quanto la percorrenza è piuttosto elevata sia come velocità sia come certo. Numero di veicoli e invoglia l'automobilista a sforare sui limiti previsti. 800 24 00 24, avete ancora ben 7 minuti di tempo per superare ad un limite di velocità adeguato la barriera rosa. Sentirei Silvana, c'era Nadia prima, però Silvana in realtà mi incuriosisce su un aspetto. Che dici, Nicoletta? Anche a me. Silvana, buongiorno, ci chiama da Padova, benvenuta. Da Padova, sì. Io ho preso proprio ieri l'avviso di pagamento di una multa, mi hanno mandato il bollettino già prestampato con una copia del verbale. Quanto le suona, tra l'altro, Silvana, questo scherzetto? 41 euro. 41. Perché superavo 5 chilometri solo la velocità consentita. Ecco, io volevo sentire, posso chiedere a questi della polizia, è un mio diritto chiedere che mi facciano vedere il manuale di manutenzione dell'autovelox se è stato veramente manutenuto e tarato? Certo, tra l'altro Silvana, ho visto nelle anticipazioni della sua domanda che in realtà lei segnalava anche il fatto che non c'era nella notifica la foto della sua auto. No. Ma dottor Scotti, deve ancora esserci? No, la foto viene soltanto richiesta, può essere richiesta, deve essere a disposizione della persona, assolutamente, il quale la può verificare. La signora, dalla cifra si capisce che ha superato di non oltre di 10 km orari il limite consentito, è un suo diritto sapere se effettivamente è stato manutenuto e tarato l'autovelox in questione, non ottenere certo la copia del regolamento, ecco, questo sarebbe eccessivo, francamente. Quindi insomma, Silvana, magari una chiacchierata. Questi autovelox li avete tenuti bene o no? In sostanza, così sono tarati, funziona correttamente o meno. Allora, chi abbiamo invece adesso? Abbiamo Nadia. Dalla provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno, sono Nadia di Sabaudia. Complimenti intanto. Esula un po' dalla taratura degli autovelox, la mia domanda. Percorro spesso l'Aurelia e ho preso qualche multa all'offesa. E volevo sapere la distanza della segnalazione degli autovelox, a quale distanza deve essere, se è valida sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili, perché ci sono quelli mobili che sono veri e propri agguati. Ah, ecco, dottor Scotti. Sì, allora vale per entrambi. La distanza minima è di 80 metri, questo secondo sulla base di una circolare del Ministero, poi ovviamente varia sulla base della tipologia di strada, che può arrivare fino a un chilometro di distanza, nel senso che bisogna dare il tempo all'automobilista di adeguare la velocità. Bisogna verificare ovviamente che sia stata correttamente posizionata. Posso segnalare che c'è addirittura una sentenza, anche se non conosciutissima, del Tribunale di Piacenza, che addirittura in un caso ha stabilito che il verbale deve riportare chiaramente la precisazione che era stata apposta a questa segnaletica di avvertimento per quanto riguarda il conducente. Allora, intanto segnalo che pizzardone si dice a Roma e ho fatto una gaffe clamorosa, perché effettivamente è vero che anche ad Ancona lo utilizziamo, per questo che me lo ricordavo, vedi, il pizzardò con l'accento sulla O. Come ecco, ci così scrive un ascoltatore nella commedia L'imbriago. L'imbriago, che è l'ubriaco naturalmente, ottimo, non me lo ricordavo e adesso mi sono anche fatta una rinfrescata sul dialetto delle mie parti. 800 24 00 24, il numero verde che avete ancora a vostra disposizione per le domande sulle multe e l'autovelox. Se siete stati in tantissimi a scriverci, tra l'altro ovviamente a scriverci, a chiamarci, non riusciremo a rispondere a tutti perché ognuno di voi ha un caso diverso, un limite di velocità diverso sforato in una strada diversa d'Italia, autovelox diverso, più o meno accompagnato, e quindi ogni caso merita una risposta singola. Se avete voglia scriveteci a cuoredenari@radio24.it. Dottor Scotti, come sempre, è a nostra disposizione, insieme anche, lo segnalo, all'amico Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che volevo oggi con noi e senza voce, poverino, non ha potuto farci compagnia. Ci sarà presa un po' di erisimo? No, si sa. Mi sono scordata ieri di suggerirglielo. Enzo da Modena, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Vi seguo tutti i giorni. Bravo. È anche bello, perché abbiamo anche questo potere, rendiamo anche più belli. Enzo, che succede? Per la sola ragione che sono sempre sulla strada, quindi guido un camion, quindi sono sempre sintonizzato. No, niente, la cosa mi è arrivata proprio poco tempo fa, una multa, percorrendo una strada che faccio tutti i giorni, per dare altre cose. Sì. E ho ricevuto questa multa, pur essendo il limite di velocità di 60, praticamente ho dovuto pagare 71 euro perché l'ho pagata, la volevo contestare, ma poi mi hanno sconsigliato qualcuno. Ma sono stato multato a 61 km orari. Sì. 61. Cioè, la cosa mi ha lasciato molto perplesso, certo, in sostanza. Questa è una postazione fissa che si trova a San Matteo della Decima, praticamente zona San Giovanni Persiceto, e poi mi hanno sconsigliato di procedere alla contestazione proprio per questo fatto. Io secondo me l'avrei dovuta contestare. Grazie Enzo, sentiamo cosa ci suggerisce il dottor Scotti. Davvero, quando la contestazione avviene per aver superato il limite di velocità per un solo chilometro, dottor Scotti, qua veramente i casi di questo tipo che ci stanno arrivando sono un tantissimi. Chilometro, 3 chilometri, che esatto. Cosa? Ecco, teniamo presente che in realtà la velocità misurata nel caso dell'ascoltatore era di 66 km orari, quindi già il 5% era stato decurtato. È stato decurtato un minimo di 5 km. Lei ne è sicuro orari che sia avvenuta così? Assolutamente. Se non è riportato sul verbale, quel verbale può essere impugnato perché è un verbale errato. Quindi andate a leggere bene, insomma, potrebbe che esatto, la velocità rilevata e la velocità contestata. Cioè, quindi la velocità rilevata era 66 km orari, è stata abbattuta del 5%. Quindi in realtà quando noi diciamo che abbiamo superato di un solo chilometro orario il limite, in realtà sono almeno 6. Grazie dottor Scotti. Cercheremo di capire prossimamente che portata ha questa sentenza della Corte Costituzionale. Certamente i comuni non sono molto contenti del fatto che adesso potrebbero arrivare molti ricorsi da parte di molti automobilisti che si riterranno autorizzati a farne. Grazie. A domani. A domani, buona giornata a tutti. Tutti.